Letture di Radio 24. Di fronte allo scandalo Tangenti che ha coinvolto Filippo Penati, ex presidente PD della provincia di Milano, Pierluigi Bersani interviene per sottolineare la differenza tra maggioranza e opposizione per quanto riguarda la questione morale. Ma, come sottolinea Antonio Polito in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, dimentica completamente di fare autocritica. Il PD ha questo di buono. Della sua questione morale, perlomeno, ne parla. Bersani ha affrontato il problema con la lettera pubblicata martedì scorso dal Corriere della Sera, che contiene due elementi apprezzabili. Il primo è l'ammissione che la diversità genetica non esiste più. Gli iscritti al PD non sono vaccinati dalla loro storia o dai loro ideali contro la tentazione di rubare. Bersani dice che il PD aspira piuttosto a una diversità politica ed elenca molte misure certamente utili per ridurre il rischio che i politici, i suoi e gli altri, rubino. Tra queste, una legge, del resto prevista in Costituzione, che regolamenti la vita dei partiti condizionando i generosi finanziamenti dello Stato al rispetto di regole interne di trasparenza. Bisognerebbe anzi prevedere, come nel calcio, la responsabilità oggettiva. Chi sgarra perde i soldi pubblici. Detto questo, Bersani si ferma ben al di qua di ciò che servirebbe per restituire al PD l'onore politico compromesso dai casi Penati, Pronzato e Tedesco. Nella sua lettera manca infatti ogni accenno autocritico. Che ci vuole per ammettere, per esempio, che un dirigente del PD nel consiglio di amministrazione dell'ENAC non doveva proprio starci? Non è così che si separa la politica dalla gestione, come il PD spesso auspica. Se si dà a un politico il potere di assegnare una tratta aerea, gli si regala anche un potere discrezionale che sarà fatalmente tentato di sfruttare. E non sono forse migliaia gli enti e le aziende pubbliche i cui CDA esistono al solo scopo di assicurare poltrone e affari ai partiti? Secondo punto. Non si può criticare il PD perché alcuni suoi senatori si sono rifiutati di avallare il teorema per cui Tedesco, che non fu arrestato quando era un semplice assessore di Vendola, meriti ora la privazione della libertà perché da parlamentare può delinquere più facilmente, tesi sostenuta dai magistrati. Ma il PD ha la colpa di aver portato in Parlamento Tedesco proprio perché era inquisito, con la furbata di eleggere a Strasburgo chi lo precedeva in lista, promuovendolo così da primo dei non eletti a eletto dotato di scudo. Infine, il caso Penati, il più scabroso per Bersani, poiché ne era il braccio destro. Si capisce che il segretario del PD non voglia entrare nel merito delle accuse penali, ma la pietra dello scandalo è la spericolata operazione con cui la provincia di Milano, guidata da Penati, comprò azioni di una società autostradale, peraltro già maggioranza di capitale pubblico. Bersani potrebbe almeno dire che quell'affare fu un errore, frutto dell'ipertrofia, se non peggio, di una politica che invece di privatizzare acquista fette di aziende, gioca a monopoli e fa scambi impropri con le imprese usando il denaro dei contribuenti? Moralizzare davvero vuol dire espellere la politica dalla gestione degli affari e dell'economia. Fare del moralismo è invece lisciare il pelo ai pasdaran dell'antipolitica, come il PD ha fin qui spesso fatto nella speranza, ha scritto Marco Follini, di esserne risparmiato in ragione di un minor vizio. Soluzione ingenua, senza essere del tutto innocente. Il trucchetto, come si vede in questi giorni, non funziona più. Non resta che fare sul serio. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Antonio Polito, Quel che Bersani non ha scritto, dal Corriere della Sera del 27 luglio. Letture di Radio 24. Commentando la strage di Oslo in un editoriale pubblicato lunedì scorso su Repubblica, Bernardo Valli sostiene che più che un'azione isolata, quello che è successo è dovuto ad una sorta di tumore che si è andato sviluppando nella società europea contemporanea, che affonda le sue radici nell'opposizione all'immigrazione e al multiculturalismo. Venerdì pomeriggio, la notizia dell'esplosione nel centro di Oslo ha provocato in molti un immediato riflesso condizionato. Si trattava con tutta probabilità di un'autobomba e quindi di terrorismo di origine islamica. Niente di più classico, esasperante, tragica routine. Poi, col passare delle ore, sono arrivati i dettagli della strage sull'isolotto di Utoya ed è emerso quel giovane biondo con lo sguardo azzurrino. Alla certezza iniziale sulla natura jihadista dell'attentato è succeduto un momento di incredulità. Il terrorista era un puro scandinavo. Un norvegese aveva ammazzato decine di ragazzi norvegesi a sangue freddo. L'assassino era di incontestata origine europea. Era un cristiano e fiero di esserlo. Se il pensiero che si trattasse di un arabo, di un musulmano, era stato un riflesso condizionato, la scoperta che il criminale era uno dei nostri ha suscitato sgomento. Il terrorismo può dunque essere europeo. La sorpresa ha stordito non solo i norvegesi. I primi sospettati, supposti jihadisti nostalgici di Bin Laden, sono via via scomparsi dai telegiornali e dalle prime pagine dei quotidiani, e speriamo che non vi ritornino, ed è affiorata la tesi dell'attentato neonazista. Poiché il giovane biondo, identificato come Anders Behring Breivik, 32 anni, di professione agricoltore, è subito risultato anti-marxista, anti-islam, anti-multiculturale. La polemica delle attribuzioni contrapposte tra chi sosteneva la natura islamica dell'attentato e chi sosteneva quella di un'azione concertata di estrema destra non ha avuto il tempo di svilupparsi, perché, con la riserva che nel corso delle indagini emergano complici e con loro una qualche organizzazione, il giovane biondo con gli occhi azzurrini appare sempre più un assassino solitario, un uomo psichicamente anormale, un individuo affetto da paranoia. Ma se anche questa diagnosi venisse confermata, essa non ridurrebbe comunque la strage norvegese a un'azione compiuta da un pazzo, quindi a un affare di competenza dei soli psichiatri. Anders Behring Breivik è un tumore annidatosi e sviluppatosi nella nostra società europea, dove la crescita dei gruppi di estrema destra ha creato un'atmosfera che può spingere persone psichicamente disturbate a gesti di illimitata violenza. Lo sostiene Ayo Funke, professore alla Libera Università di Berlino e studioso dei fenomeni di estrema destra. E con lui sono d'accordo non pochi altri esperti nella materia. Non c'è del resto bisogno di ricorrere agli specialisti per rendersi conto che l'opposizione all'immigrazione, in particolare a quella musulmana, alla globalizzazione, al multiculturalismo e a tutto quello che lo favorisce, Unione Europea inclusa, rafforza i movimenti populisti solerti nel presentarsi come difensori dell'identità nazionale o dei particolarismi regionali. E anche se quei partiti non predicano la violenza, essi creano un clima di odio che la favorisce, anche a livello individuale. Una violenza non riservata alla Norvegia, giudicata una contrada, a torto o a ragione, tradizionalmente tollerante, ma anche possibile in tanti altri paesi, con tradizioni meno virtuose. La lotta al terrorismo di origine islamica è stata e resta giusta, indispensabile, e dopo l'11 settembre non poteva che mobilitare la quasi totalità delle varie intelligence occidentali. Ma si può sostenere, come il New York Times, che probabilmente si è sottovalutato il pericolo del terrorismo di estrema destra. L'attentato alle Torri Gemelle ha fatto ad esempio dimenticare, lo ricorda sempre il New York Times, quello avvenuto 6 anni prima, nel 1995, a Oklahoma City, dove un estremista di destra uccise 168 persone con un ordigno a base di fertilizzanti, come quello piazzato nel centro di Oslo da Anders Behring Breivik. È stato dato, ad esempio, scarso rilievo a quel che è accaduto lo scorso novembre nella città svedese di Malmo, dove un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito una dozzina di immigrati, in un caso con esito mortale. Sempre in Svezia, un partito di estrema destra, quello dei Democratici Svedesi, ha ottenuto il 5,7% dei voti ed è entrato per la prima volta in Parlamento. In Danimarca, il Partito del Popolo Danese ha 25 seggi su 179 e in Olanda il partito di Geert Wilders, il Partito della Libertà, ha ottenuto il 15,5% alle ultime votazioni. Sono nuovi e vistosi coefficienti elettorali che provocano la crescita dell'estrema destra nell'Europa del Nord, le cui società sono ritenute aperte, accoglienti con gli immigrati. Nell'Europa del Sud, gli esperti dedicano ovviamente particolare attenzione al Front National francese, del quale Nicolas Sarkozy cerca di contenere la crescita, a un anno dalle elezioni presidenziali, sottraendo non poche idee al limite della xenofobia, a Marine Le Pen, nuovo leader e pericoloso concorrente. La Lega di Umberto Bossi, con una schietta tendenza anti-immigrati, e addirittura al governo a Roma. In molti scritti, l'assassino norvegese si dichiara difensore della cultura nordica e condanna il multiculturalismo, in particolare la contaminazione araba. Con un altro stile, ben inteso, tre grandi leader europei hanno sostenuto tesi identiche. Il primo ministro del paese europeo più rispettoso dei diritti degli immigrati, l'inglese David Cameron, ha condannato il multiculturalismo. E lo stesso ha fatto a chiare lettere Angela Merkel, anche se la cancelliera tedesca non si è poi risparmiata nell'enfatizzare la necessità dell'immigrazione. In quanto al presidente francese, ha promesso una campagna sull'identità nazionale, rivelatasi sfortunata. E comunque per Parigi l'assimilazione resta un dogma e si guarda dall'ammettere il comunitarismo e quindi il multiculturalismo. Sarebbe troppo sbrigativo, anzi assurdo, affermare che l'assassino di Oslo e Utøya ha espresso con la bomba e i mitra i propositi di eminenti dirigenti europei. Non mi permetto di dirlo, né lo penso. Ma l'atmosfera europea risente di quelle idee. Anders Behring Breivik era, a quel che sembra, è un cane sciolto negli ultimi tempi. L'estrema destra norvegese non ha un vero leader. È un mosaico di tanti gruppi, sempre più numerosi, i quali traducono in discorsi fanatici i normali propositi della società politica democratica. E Breivik si abbeverava a quelle fonti. Queste erano le opinioni di Bernardo Valli sulla strage di Oslo, raccolte in un editoriale pubblicato lunedì scorso su Repubblica. Di tutt'altro avviso è invece Fiamma Nierenstein, che in un editoriale pubblicato il giorno successivo sul giornale confronta il gesto isolato di un pazzo con il ben radicato terrorismo islamico e afferma che in fondo il multiculturalismo ha fallito il suo obiettivo. Solo in Italia, paese in cui tutto diventa un tentativo di dimostrare che c'è nei dintorni qualcuno da disprezzare e mettere all'indice, la tragica vicenda di Oslo è diventata terreno di insulti e di colpe. Io sono fra quei giornalisti, come quasi tutti quelli che hanno chiuso in orario normale intorno alle 9, che occupandosi da lunghi anni di terrorismo, aveva stavolta potuto approfondire quasi solo la parte relativa all'autobomba di Oslo. E poco ancora sapeva dell'isola che ha poi molto chiarito il contesto. Sull'attacco al centro di Oslo, gli elementi raccolti, fra cui la rivendicazione di Al-Qaeda, quasi non lasciavano dubbi. Non voglio appesantire i lettori ripetendo quello che già sanno. Nomino appena i due contingenti norvegesi in Afghanistan e in Libia, le minacce di morte di al-Zawahiri, il successore di Bin Laden, le vignette su Maometto ripubblicate, in genere il grande sfondo. Al-Qaeda e il fondamentalismo islamico hanno coperto il mondo di attentati in cui l'uccisione di massa di innocenti, secondo la modalità norvegese, è il comma indispensabile. La variabile dell'orribile assassino pazzo non l'avevo messa in conto, confesso. Uno psicopatico stragista, un tipo al quale nessuna politica sociale avrebbe mai curato la sete di sangue. Non mi convince nemmeno il lato oscuro delle società aperte di cui si è molto scritto citando la letteratura nordica. Il lato oscuro di uno che cannoneggia 80 ragazzini a sangue freddo sta nella sua testa, quale ne sia il contesto. Tutt'altra cosa è il terrorismo islamico, ormai ricco di una tradizione, di martiri, di convinzioni teoriche, di soldi, di organizzazione, di piani. Era logico, di fronte a un così grande attentato, pensarci. Ed ecco che il giornalista, messo di fronte a dati già scandagliati molte volte, è giunto a conclusioni poi rivelatesi errate, ma che avevano molte ragioni di essere credute. E tuttavia si è trovato di fronte a due diverse accuse, una personale, l'altra dannosa per tutti. La prima è quella di essere stato preda di una smania frettolosa, compiaciuta e spaventosamente disinformata, con cui i cantori dello scontro di civiltà hanno subito gridato alla marca islamista. Questo l'ha scritto sul Corriere Pierluigi Battista, ma lui, acuto analista, sa che cantore non sono e neppure disinformata. Tutte le informazioni fino a quell'ora conducevano in quella direzione. Il loro sfondo analitico l'ho rimuginato per anni. Bali, Madrid, Londra. Dunque, anche la prossima volta che ci sarà un attentato mi prenderò il rischio di esaminare la pista di Al-Qaeda e simili. E ora la seconda questione. È insopportabile e pretestuoso che su Repubblica Bernardo Valli sostenga che la critica al multiculturalismo, la preoccupazione in particolare per una presenza islamica in Europa, abbia creato le premesse per l'impazzimento omicida. La Merkel, Cameron, che Valli biasima, e anche Frattini, che ne hanno denunciato il fallimento, non facevano altro che registrare con coraggio una realtà. E che cosa? Ora non si può più dire. Avevamo sbagliato nel nostro modo di guardare all'immigrazione. Ci siamo innamorati dei colori e dei costumi senza guardare se c'era quella passione inquieta e ardente che Tocqueville vedeva nei nuovi immigrati in America, puntata tutta ad acquisire modernità e democrazia. Al giorno d'oggi non abbiamo stabilito norme accettabili. L'immigrazione è portatrice, oltre che di novità e ricchezza, anche di grandi guai. Una rinnovata oppressione della donna, il ritorno del delitto d'onore, mutilazioni genitali, famiglie poligamiche. In Norvegia, nel 2047, la popolazione musulmana avrà pareggiato quella locale. In più, c'è un Islam politico e conquistatore. Lo scrittore Bruce Bauer, omosessuale che dagli Stati Uniti aveva scelto Oslo per vivere una vita più tranquilla, da tempo teme di uscire col suo compagno per le aggressioni di gruppi omofobi stranieri. Le classi delle elementari in Norvegia dovrebbero includere fino a 15 bambini immigrati contro 5 locali. Spesso non sanno la lingua. Dimostra che l'integrazione, se dilaga, è un difficile affare e che ci siamo comportati leggermente? Sì. Dimostra che io, parlandone qui, sto fomentando l'odio di qualche orribile mostro nascosto nei dintorni? Chi osa sostenerlo, lo denuncio. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Fiamma Nierenstein, Se il multiculturalismo ha fallito, dal Giornale del 26 luglio.